ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. La sveglia suonò, scaraventando Martin fuori dal sonno con una rapidità che avrebbe procurato un bel mal di testa a chiunque non possedesse una costituzione altrettanto forte. Martin dormiva profondamente, ma si svegliava in un istante, come un gatto. Si svegliava pieno di entusiasmo, felice perché le 5 ore di incoscienza erano finite. Odiava l'oblio del sonno. C'erano troppe cose da fare, troppa vita da vivere. Rimpiangeva ogni momento di vita che il sonno gli rubava e prima che la sveglia avesse finito di sferragliare, Martin aveva già infilato testa e orecchie nel lavandino, tremando per il morso gelido dell'acqua. Quel giorno non seguì il suo programma abituale. Non c'erano racconti lasciati a metà in attesa della sua penna e nessun racconto nuovo che deva di prender forma. Martin aveva studiato fino a tardi la sera precedente, eppure, nonostante fosse quasi ora di colazione, cercò di leggere un capitolo di Fisk. Ma il suo cervello rifiutava di concentrarsi e allora Martin decise di chiudere il libro. Quella giornata sarebbe stata testimone dell'inizio di una nuova battaglia e per un po' non ci sarebbe stato tempo per scrivere. Martin avvertiva in sé una tristezza simile a quella che si prova quando bisogna lasciare la propria casa e la propria famiglia. Guardò i manoscritti nell'angolo. Ecco che cos'era. Stava andando lontano da loro, dai suoi figli meschini e rifiutati, quei figli che nessuno aveva voluto accogliere. Si avvicinò e cominciò a rovistare nel mucchio, leggendo qualche frase qua e là e i suoi passi preferiti. Donò a Il Crogiuolo l'onore di una lettura ad alta voce e fece lo stesso con Avventura. L'ultimo nato, Gioia, terminato il giorno precedente e gettato nell'angolo per mancanza di francobolli, si meritò la sua più affettuosa ammirazione. «Non riesco a capire», mormorò Martin. «O forse sono gli editori che non capiscono. Non c'è niente di sbagliato nei miei racconti. Gli editori pubblicano cose peggiori ogni mese. Tutto quello che pubblicano è peggio. Quasi tutto, a ogni modo». Dopo colazione, mise la macchina per scrivere nella sua custodia e la riportò giù, a Auckland. «Devo ancora un mese di noleggio», disse al commesso del negozio, «ma dica al direttore che lavorerò e che riuscirò a mettere le cose in pari in un mese, più o meno». Prese il traghetto per San Francisco e quindi si diresse all'ufficio di collocamento. «Qualsiasi tipo di lavoro, ma niente commercio», disse all'impiegato, ma fu interrotto da un nuovo arrivato. Era un tipo vestito quasi come un damerino, come a volte si vestono gli operai per mostrare che sarebbero capaci di apprezzare cose più raffinate. La gente scosse la testa. «Niente da fare, eh?» disse l'uomo. «Beh, devo trovare qualcun altro. Entro oggi». Si girò e fissò Martin. E Martin, fissandolo a sua volta, ne notò la faccia pallida e gonfia, bella e debole. E capì che l'uomo era reduce da una nottata di lavoro. «In cerca di un posto?» indagò l'uomo. «Cosa sai fare?» «Lavori pesanti, il marinaio. So usare una macchina per scrivere, niente stenografia però, so andare a cavallo». «Sono disposto a fare qualsiasi cosa e a prendere qualsiasi lavoro», fu la risposta. L'uomo annuì. «Mi suona bene, mi chiamo Dawson, Joe Dawson, e sto cercando di acchiappare un lavandaio». «Troppo per me». Martin ebbe la divertente e rapida visione di se stesso intento a stirare quelle cose bianche e vaporose che indossano le donne. Ma quell'uomo gli piaceva e così aggiunse: «Potrei fare il bucato grosso. Ho imparato a farlo sulle navi». Joe Dawson pensò visibilmente per un secondo. «Ascolta, parliamone e vediamo di combinare. Ti vado ad ascoltare?» Martin annuì. «È una piccola lavanderia verso la campagna, appartiene alla Shelley Hot Springs. Un albergo, sai. Ci lavorano 2 uomini, un responsabile e un assistente. Io sono il responsabile, tu non lavori per me, ma lavori sotto di me. Pensi di avere voglia di imparare?» Martin prese tempo per pensare. La prospettiva era seducente. Alcuni mesi di lavoro, durante i quali avrebbe avuto il tempo per studiare. Poteva lavorare sodo e studiare sodo. «Rancio assicurato e una stanza tutto per te», disse Joe. «Ma il lavoro è un inferno, eh?» aggiunse l'uomo. Martin si accarezzò le spalle muscolose in modo significativo. «Sono così perché hanno lavorato duro?» «Beh, allora concludiamo!» Every night she comes to take me out to dreamland. When I'm with her, I'm the richest man in the town. She's a rose, she's a pearl, she's a spin on my world. All the stars make their wishes on her eyes. She's my Coney Island, baby. She's my Coney Island girl. Martin arrivò allo Shelly Hot Springs domenica sera, stanco e impolverato. Joe lo salutò con entusiasmo. Aveva lavorato tutto il giorno e aveva ancora un asciugamano bagnato avvolto attorno alle tempie doloranti. «Sono rimasto indietro con il bucato della scorsa settimana, quando ero via per cercarti», spiegò. «Il tuo bagaglio è arrivato bene, è nella tua stanza». «Ma è un accidente di una cosa, mica un baule! E cosa c'hai ficcato dentro? Lingotti d'oro?» Joe guardava con gli occhi gonfi alcune camicie e diversi cambi di biancheria uscire dal baule, seguito da libri e poi da altri libri e da libri. «Libri fino in fondo», chiese. Martin annuì e continuò a sistemare i libri sul tavolo da cucina che nella stanza serviva da tavolo da toilette. «Di!» esclamò Joe, e poi aspettò in silenzio che la deduzione sorgesse nel suo cervello, e alla fine sorse. «Di! A te non interessano le ragazze?» «Non molto, eh?» lo interrogò. «Oh no», fu la risposta. «Una volta, prima di darmi ai libri, io andavo parecchio a caccia, ma adesso non ho più tempo». «E qui non ci sarà molto tempo, tutto quello che puoi fare è dormire e lavorare», disse Joe. Marty pensò alle sue 5 ore di sonno per notte e sorrise. Martin imparò a fare molte cose. Durante la prima settimana, in un solo pomeriggio, lui e Joe fecero fuori 200 camicie bianche. Joe governava il ferro a vapore, composto da una caldaia unita ad un ferro da stiro bollente, per mezzo di un piccolo cavo di acciaio che forniva la pressione necessaria. Con questo strumento, Joe stirava lo sprone, i polsini e il collo, mettendo quest'ultimo ad angolo retto rispetto alla camicia, e rifiniva lo sparato. Non appena aveva finito, Joe lanciava la camicia su una rastrelliera posta tra lui e Martin, il quale la afferrava e le dava una infornata, cioè stirava tutte le parti non inamidate della camicia. Era un lavoro spossante, che doveva essere svolto ora dopo ora alla massima velocità. Al termine della settima settimana, senza volerlo, semplicemente troppo debole per resistere, Martin si trascinò fino al villaggio insieme a Joe, dove, fino a lunedì mattina, annegarono la vita per ritrovare la vita. Martin, poi, riprese a macinarsi 200 chilometri durante i fine settimana. Così cancellava l'ottundimento provocato da troppi sforzi con l'ottundimento provocatogli da uno sforzo ancora più grande. E alla fine del terzo mese scese una terza volta al villaggio insieme a Joe. Dimenticò e visse di nuovo, e poiché viveva, vide chiaramente la bestia in cui si stava trasformando. La causa non era il bere, ma il lavoro. Il bere era un effetto, non la causa. Un effetto che seguiva inevitabilmente alla troppa fatica, così come la notte segue il giorno. E il whisky sussurrava a Martin che se fosse diventato un animale da soma non avrebbe potuto impossessarsi delle vette. E Martin annuì. Il whisky era saggio, svelava i segreti. Martin chiese carta e penna e ordinò un altro giro. E mentre tutti bevevano la sua salute, si appoggiò al bancone e scarabocchiò qualche cosa. «Un telegramma, Joe», gli disse. «Leggilo». Joe iniziò a leggerlo con uno sguardo ubriaco e perplesso, ma ciò che leggeva sembrò renderlo di nuovo sobrio. Guardò l'altro con rimprovero, mentre le lacrime gli scendevano dagli occhi giù per le guance. «Non vuoi ripensarci, Mart?» gli chiese senza molta speranza. E Martin scosse il capo e chiamò uno dei camerieri perché portasse il messaggio all'ufficio telegrammi. «Aspetta!» mormorò Joe con fatica. «Lasciami pensare!» Si afferrò al bancone mentre le gambe si piegavano sotto di lui. Martin gli mise un braccio intorno per sostenerlo mentre pensava. «Scrivici due lavandai!» «Due lavandai! Cercasi due lavandai! Lasciamelo correggere!» «E tu perché te ne vuoi andare?» gli chiese Martin. «Stesso tuo motivo!» «Ma io mi imbarcherò di nuovo!» «Tu non puoi farlo!» «Eh no!» fu la risposta. «Ma posso sempre fare il vagabondo!» «Ah! Oh, accidenti se posso!» Martin lo guardò con attenzione per un momento e poi esclamò. «Per Dio! Hai ragione! Meglio essere un vagabondo che diventare una bestia per la fatica!» «Perché, amico mio, almeno tu vivrai, e questo è molto più di quanto tu abbia fatto finora!» Il sabato ritirarono la loro paga. Era giunto il momento di proseguire per due strade diverse. «Non serve che ti chiedo di cambiare idea e di girovagare per il mondo con me, eh, vero?» gli chiese Joe, senza speranza. Marty gli strinse la mano e Joe la tenne nella sua per un momento. «Ci rivedremo, Marty, prima che tu e io moriremo. È la verità e me lo sento nelle ossa. Arrivederci, Marty. Fai il bravo. Ti voglio proprio bene. Lo sai?» Joe restò fermo nel mezzo della strada. Una figura derelitta, seguendo Martin con lo sguardo fino a quando una curva lo nascose alla sua vista. «È proprio una brava persona, quel ragazzo», mormorò. «Una brava persona!» Poi si avviò a sua volta per la strada, verso la cisterna dell'acqua, dove una mezza dozzina di vagoni merci attendevano su un binario secondario l'arrivo della locomotiva. Martin sentì di nuovo agitarsi in sé il desiderio di scrivere. Racconti e poesie sorgevano spontaneamente nel suo cervello, sotto forma di nuove creature, e lui prendeva appunti per il futuro, per quando avrebbe dato loro completa espressione. Ma per ora Martin non scriveva. Quella era la sua breve vacanza. Aveva deciso di dedicarsi solo al riposo e all'amore, e si mostrò bravissimo in entrambi i compiti. In breve tempo l'antica vitalità riprese a sgorgare da lui. Ogni giorno incontrava Ruth e lei si sentiva di nuovo turbata dalla sua forza e dal suo vigore, come in passato. «Stai attenta», disse sua madre, la signora Morse. «Temo che tu veda troppo spesso il nostro Martin Eden.» Ruth, nella sua sicurezza, rise. Era sicura di se stessa, e inoltre, entro pochi giorni, lui si sarebbe imbarcato di nuovo, e poi, al suo ritorno, lei sarebbe stata via in visita ai parenti sulla costa orientale. Eppure, nonostante tutto, c'era qualcosa di magico nella forza e nella salute di Martin, il quale, da quando era stato messo al corrente del prossimo soggiorno sulla costa orientale della sua amata, aveva avvertito l'urgenza di accelerare i tempi. Ma lui non sapeva in che modo si dovesse corteggiare una ragazza come Ruth. Era ostacolato dalla troppa esperienza fatta con ragazze e donne completamente diverse da lei. Quelle donne conoscevano l'amore, la vita, la seduzione, mentre Ruth non ne sapeva niente. La prodigiosa innocenza di lei lo paralizzava, congelava ogni discorso appassionato sulle sue labbra e lo convinceva, malgrado se stesso, di non meritarla. Martin, però, era ostacolato anche da qualcos'altro. Prima di allora non era mai stato innamorato. Nel suo rigoglioso passato molte donne gli erano piaciute, da alcune era stato affascinato, ma non aveva mai saputo cosa volesse dire innamorarsi di una donna. Gli era bastato fischiare con arrogante noncuranza perché le donne accorressero. Per Martin erano state momenti di distrazione, incidenti, parti, e per il più delle volte piccole parti, del gioco che gli uomini giocano. E ora, e per la prima volta, Martin era il questuante, timido, pieno di tenerezza e di dubbi. Non conosceva i modi né il linguaggio dell'amore ed era spaventato dalla limpida innocenza della sua amata. Mentre Martin percorreva il processo di conoscenza del mondo, di un mondo sempre mutevole, mentre scivolava attraverso momenti sempre diversi di quel mondo, aveva imparato una regola di condotta. Quando si trovava a giocare un gioco sconosciuto, lasciava sempre che un altro giocatore facesse la prima mossa. Quella strategia l'aveva salvato migliaia di volte e gli aveva insegnato ad osservare. Sapeva come guardare ciò che ai suoi occhi appariva strano, come aspettare una debolezza, un varco, qualcosa che rivelasse il gioco. Era come tirare delle finte, a pugni nudi, in attesa del momento migliore per iniziare a combattere. E quando il momento migliore arrivava, Martin sapeva per lunga esperienza come giocarselo e sapeva giocare duramente. Così aspettò Ruth e la osservò, desiderando ma non osando mai dirle il suo amore, perché aveva paura di sconvolgerla e non si sentiva sicuro. Se solo avesse saputo che stava seguendo la strada giusta. L'amore è apparso al mondo prima dell'arte del discorso e nella sua gioventù ha imparato modi e significati che non ha mai più dimenticato. Martin corteggiava Ruth proprio in quel modo antico, primitivo. All'inizio non se ne rese neppure conto, ma più tardi lo indovinò. Il tocco della mano di Martin su quella di lei era immensamente più potente di qualsiasi parola lui potesse pronunciare. L'impatto della sua forza sull'immaginazione di lei era più seducente delle poesie riprodotte a stampa, delle parole di passione pronunciate da migliaia di generazioni di amanti. Qualsiasi parola la lingua di Martin avesse articolato, si sarebbe rivolta, almeno in parte, alla razionalità di Ruth. Ma il tocco della mano di Martin, tutti quei contatti fuggevoli, arrivavano direttamente all'istinto di lei. La razionalità di Ruth era giovane come i suoi anni, ma i suoi istinti erano vecchi come la razza, e anche di più. Quegli istinti erano stati giovani, quando l'amore era giovane, ed erano stati più saggi di ogni convenzione e opinione che qualsiasi cosa appena nata potesse possedere. Così, la razionalità di Ruth non entrò nel gioco, non era stata invitata, e la ragazza non si rese conto della forza dell'attrazione che Martin esercitava istante per istante sui suoi sentimenti. Ma che lui l'amasse, questo sì, le era chiaro come la luce del sole, e lei si deliziava pienamente consapevole di quelle manifestazioni d'amore. Gli occhi illuminati da lampi di tenerezza, le mani tremanti, quel debole e persistente rossore che si riversava cupo sotto la pelle abbronzata di lui. Ruth si spinse oltre. Lo incoraggiò timidamente e in un modo così delicato che Martin non se ne accorse mai. Ruth stessa non era del tutto consapevole di ciò che stava realmente facendo, ma ne aveva appena il sospetto. Tremava davanti ad ogni prova del potere che la proclamava donna e fu assalita da un piacere simile a quello di Eva nel tormentare Martin e nel giocare con lui. Martin, ammutolito dall'inesperienza, dall'eccessiva passione, corteggiava Ruth in modo ridicolo e goffo, continuando però ad avvicinarsi a lei per mezzo del contatto fisico. Il tocco della sua mano era gradito, anzi, era qualcosa di delizioso, di più che gradito. Martin non lo sapeva, ma capiva che non le dava fastidio, anche se le loro mani potevano toccarsi solo quando si salutavano, incontrandosi o separandosi. Ma quando andavano in bicicletta, quando fissavano con le cinghie i libri di poesie che portavano sulle colline, ecco, quando giravano le pagine dei libri fianco a fianco, le loro mani potevano, come per caso, sfiorarsi. E anche i capelli di lei potevano, sempre per caso, sfiorargli la guancia, e anche le spalle potevano sfiorarsi mentre si chinavano insieme sulla bellezza racchiusa nelle pagine dei libri. Lei sorrideva dentro di sé a quegli impulsi vagabondi che sorgevano da non si sa dove per suggerirle di scarruffare i capelli di Martin. Lui, invece, quando erano stanchi di leggere, desiderava solo appoggiare la testa sul grembo di lei per sognare ad occhi chiusi quel futuro che sarebbe stato il loro. In passato, durante i picnic domenicali allo Shelmond Park o allo Schützenpark, Martin aveva riposto la sua testa su molti grembi e di solito vi aveva dormito profondamente ed egoisticamente, mentre la ragazza di turno cercava di proteggergli la faccia dal sole e lo guardava e lo amava, riflettendo sulla arrogante noncuranza con la quale lui trattava il suo amore. Per Martin, fino a quel momento, riposare la testa sul grembo di una ragazza era stata la cosa più facile del mondo, e ora scopriva che il grembo di Ruth era inaccessibile. Eppure, era proprio quel suo pudore il punto di forza di Martin nel corteggiare Ruth, perché gli impediva di spaventarla. Ruth, a sua volta, sensibile e timida, non ebbe modo di vedere la piega pericolosa che stava prendendo la loro amicizia. Senza accorgersene, si stava affezionando e legando sempre di più a Martin, mentre lui, consapevole della crescente intimità, avrebbe desiderato usare di più. Ma aveva paura. Poi Martin osò. Accadde un pomeriggio, quando trovò Ruth in soggiorno, al buio, accecata dal mal di testa. «Non c'è nulla che mi dia sollievo», aveva risposto lei alle sue domande. «E non prendo medicine per il mal di testa. Il dottor Hall non me ne permetterebbe». «Forse posso fare qualche cosa, e senza medicine», fu la risposta di Martin. «Certo, non sono sicuro, ma vorrei provare. È solo un massaggio. Ho imparato il trucco dai giapponesi, sa? Sono un popolo di massaggiatori. E poi ho imparato tutto da capo dagli hawaiani. È un tipo di massaggio un po' diverso». Lo chiamano l'omi lomi. Ottiene molti dei risultati che si hanno con le medicine e anche qualcuno che i farmaci non riescono a dare. Le mani di Martin avevano appena toccato la testa di Ruth quando lei sospirò profondamente. «È così bello», disse. Parlò di nuovo, mezz'ora più tardi, per chiedergli: «Non è stanco?» Era una domanda di cortesia e lei sapeva quale sarebbe stata la risposta. Poi si perse nella sonnolenta contemplazione del dolce balsamo della forza di Martin. La vita scaturiva dalla punta delle dita di lui, spingendo via il dolore, o almeno così le sembrava. Infine, quando il dolore si fu alleviato, lei si addormentò e lui sgattaiò via. Quella sera Ruth gli telefonò per ringraziarlo. «Ho dormito fino all'ora di cena», gli disse. «Lei mi ha guarita completamente, signor Eden. Davvero, non so come ringraziarla». Martin era così pieno di passione che faceva fatica a parlare, a risponderle, ma era infinitamente felice. Durante l'intera conversazione telefonica, danzò nella sua mente il ricordo di Browning e di Elizabeth Barrett, così ammalata. Ciò che era accaduto una volta poteva accadere di nuovo, e lui, Martin Eden, poteva riuscirci, e ci sarebbe riuscito per Ruth Morse. Tornò nella sua camera e al volume della Sociologia di Spencer, che giaceva aperto lì sul letto. Ma non riusciva a leggere. L'amore lo tormentava e ottondeva la sua volontà al punto che, nonostante tutta la sua determinazione, si ritrovò seduto al piccolo tavolo macchiato di inchiostro. Il sonetto che compose quella notte fu il primo di un ciclo completato in 2 mesi di 50 sonetti d'amore, scritti avendo sempre in mente i sonetti d'amore dal portoghese di Browning. Martin si trovava nella condizione migliore per creare qualcosa di davvero nobile. Attraversava un momento critico della sua esistenza ed era in preda degli spasimi della sua dolce follia d'amore. Le molte ore che non poteva passare con Ruth, Martin le dedicava al ciclo dell'amore e alla lettura, sia a casa, sia nella sala di lettura della biblioteca, dove poteva familiarizzare con le riviste del giorno, la loro politica editoriale e la natura di ciò che contenevano. Le ore che passava con Ruth, invece, lo facevano impazzire, perché erano piene di promesse che non si realizzavano mai. Una settimana dopo che Martin aveva guarito Ruth dal mal di testa, Norman, suo fratello, appoggiato da Arthur e Olney, propose di fare una gita di mezzanotte in barca a vela sul lago Merritt. Martin era il solo capace di manovrare una barca e fu arruolato di forza. Ruth sedeva a poppa vicino a lui, mentre i tre giovanotti si erano accomodati a metà barca. La luna non era ancora sorta, e Ruth, che stava fissando la volta stellata del cielo, senza scambiare una sola parola con Martin, all'improvviso si sentì sola. Allora lo guardò. Un soffio di vento fece inclinare la barca, il ponte sfiorò l'acqua e Martin, una mano sul timone e l'altra sulla scotta dell'albero maestro, orzò leggermente, guardando sempre oltre la prua, alla ricerca della vicina costa settentrionale. Non si accorse dello sguardo di Ruth e lei continuò a scrutarlo intensamente. Rifletteva divertita sulla strana natura dell'anima di lui, che spingeva quel giovane uomo di notevoli capacità a sprecare il suo tempo scrivendo racconti e poesie destinati alla mediocrità e al fallimento. Lo sguardo di Ruth indugiò lungo il collo muscoloso, appena visibile alla luce delle stelle, poi lungo la testa, così forte. Allora, l'antico desiderio di appoggiare le mani su quel collo si risvegliò. Era attratta proprio dalla forza che lei aborriva. Si sentì ancora più sola e si sentì stanca. Stare seduta sulla barca inclinata era scomodo e fastidioso. E Ruth ricordò come lui le avesse curato il mal di testa, ricordò il balsamico riposo che abitava in lui. Martin era seduto di fianco a lei, proprio di fianco, e la barca sembrava sospingerla verso di lui. Sentì nascere in sé l'impulso di appoggiarsi a quell'uomo, di riposarsi nella sua forza. Era un impulso vago, quasi informe, eppure, mentre lo stava ancora analizzando, quell'impulso si era già impadronito di lei e l'aveva spinta ad appoggiarsi a Martin. Oppure era stata l'inclinazione della barca. Non lo sapeva, non l'avrebbe mai saputo. Sapeva solo che adesso era appoggiata a Martin, che questo le dava sollievo, che quel balsamico riposo la faceva stare davvero bene. Forse era stata colpa della barca, ma Ruth non fece alcuno sforzo per evitarlo. Si appoggiò alle spalle di lui, leggermente, ma vi si appoggiò e continuò a restarvi appoggiata anche quando Martin cambiò posizione perché lei potesse stare più comoda. Era una follia, ma Ruth rifiutava di riflettervi. Non era più lei, ma una donna, con il bisogno di protezione delle donne. E anche se Ruth si appoggiava solo leggermente, quel bisogno sembrava soddisfatto. Non si sentiva più stanca. Martin non parlava. Se lo avesse fatto, l'incantesimo si sarebbe spezzato, mentre la pudicizia del suo amore lo prolungava. Si sentiva stordito, confuso, non poteva comprendere ciò che stava accadendo. Era così meraviglioso che Martin si convinse di stare delirando. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it